verasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso di me è fittoria. Tornar di là vicinto, dirti per te ho pugnato, per te ho veneto. Vorrei darti le dolci brezze del patrio.